Sura 77. Al-Mursalat. Le inviate. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Per le inviate in successione, per quelle che impetuose tempestano, per quelle che si diffondono ampie, per quelle che separano con esattezza, e per quelle che lanciano un monito a guisa di scusa o di avvertimento. In verità, quello che vi è stato promesso avverrà. Quando le stelle perderanno la luce e si fenderà il cielo, e le montagne saranno disperse e sarà indicato il momento ai messaggeri. A quale giorno saranno rinviati? Al giorno della decisione. Chi mai ti dirà cos'è il giorno della decisione? Guai in quel giorno a coloro che tacciano di menzogna. Già non facemmo perire gli antichi? E non li facemmo seguire dagli ultimi? Così trattiamo i colpevoli. Guai in quel giorno a coloro che tacciano di menzogna. Non vi creammo da un liquido vile che depositammo in un sicuro ricettacolo per un tempo stabilito? Siamo noi che lo stabiliamo. Siamo i migliori nello stabilire tutte le cose. Guai in quel giorno a coloro che tacciano di menzogna. Non abbiamo fatto della terra un luogo di riunione dei vivi e dei morti? Non vi ponemmo alte montagne? Non vi demmo da bere un'acqua dolce? Guai in quel giorno a coloro che tacciano di menzogna. Sarà detto ai miscredenti: andate verso quel che tacciavate di menzogna. Andate verso un'ombra di tre colonne che non ombreggia e non ripara dalla vampa infernale, che proietta scintille grandi come tronchi, che sembrano in vero lastre di rame. Guai in quel giorno a quelli che tacciano di menzogna. Sarà il giorno in cui non potranno parlare, e non sarà dato loro il permesso di scusarsi. Guai in quel giorno a coloro che tacciano di menzogna. È il giorno della decisione in cui riuniremo voi e gli antichi. Se possedete uno stratagemma, usatelo dunque contro di me. Guai in quel giorno a coloro che tacciano di menzogna. I timorati di Allah saranno tra ombre e sorgenti e frutti che brameranno. Sarà detto loro: mangiate e bevete in pace, compenso per quello che avete fatto. Compensiamo così coloro che compiono il bene. Guai in quel giorno a coloro che tacciano di menzogna. Sarà detto loro: mangiate e godete un poco, voi che siete criminali. Guai in quel giorno a coloro che tacciano di menzogna. Quando si dice loro: inchinatevi, non si inchinano. Guai in quel giorno a coloro che tacciano di menzogna. A quale discorso mai crederanno dopo di ciò?